piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Questa era Marilyn che canta che i diamanti sono i migliori amici delle donne. Beh, lei può dirlo. Qualcuno ad obiettare pensa il contrario. Sì, perché una donna può anche fare a meno dei diamanti, siamo d'accordo. Un uomo non è obbligato a regalare diamanti alle donne. Una donna può anche farsi regalare diamanti, venderseli e comprarsi, che ne so, una lavapiatti, quello che gli pare, capito? Vorrei in questa mattinata definire con l'aiuto del pubblico e con la capacità che noi abbiamo di avere a tempo reale dei risultati rispetto a delle vicende che attraversano le cronache, usando in maniera proficua come campione umano significativo il nostro pubblico. Questa mattina vorrei impegnarvi su una questione che mi ha abbastanza appassionato. C'è stata una levata di scudi, di vestali indignate, di gente che si strappava i capelli per un'azienda danese che produce gioielli, gioiellini, gioielletti, non so bene, ha messo nella metropolitana di Roma una pubblicità dicendo: cosa regalate, cosa pensate faccia più piacere alla vostra donna? Che gli regalate un grembiule, un ferro da stiro, un pigiama, oppure gli regalate un bel bracciale? Vendono bracciali, che devono dirgli? Certo, è chiaro. La risposta sembra scontata, perché devo regalarti un ferro da stiro. Ti condanno ancora di più a quella che già è una genetica perversione per cui tu debba stare la vita a stirarmi le camicie. Perché devo regalarti il grembiule? Il grembiule vuol dire che tu stai in cucina a buttare la cipolla dentro il soffritto e quello è il tuo ruolo. Sono regali squallidissimi, il pigiama. Cioè, perché non dovrebbe regalare un pigiama a una persona? Il pigiama uno se lo compra, va alla bancarella del ragazzo del Bangladesh, ha tonnellate di pigiami. Regalare un pigiama a una donna, ma un regalo fra amiche, ma che un uomo deve regalarti il pigiama? Che vuol dire? È triste, già se l'idea del pigiama è qualcosa che sì, va bene, quando è freddo non si mette il pigiama, magari di flanella, di pile, magari con i gattini, con gli orsacchiotti, con i begli unicorni. Ma però dico, è un regalo triste, squallido, fa parte dei regali squallidi. I cosiddetti regali utili non sono regali, sono dei contributi alla povertà, dei contributi al bisogno, dei contributi alla necessità. Ma il regalo è una cosa da fare allargare il cuore di gioia, una cosa superflua, vacua. Sennò che regalo è? No, magari probabilmente un gioiello è ben accetto. Io nella mia vita e nella mia esperienza non ho mai trovato una donna che ti prendesse a schiaffi se gli regali un gioiello. Gioiello fa sempre bene, dice no, ma relega la donna in un ruolo subordinato. E cosa siamo noi? Delle bambole da abbigliare con i gioielli, con i lustrini? Non siamo alberi di Natale, dateci prima il rispetto. Sì, vabbè, ma scusate, ma esistono anche uomini che le donne le rispettano, non è che tutte le prendono a calci a pugni e gli tirano l'acido in faccia. Quindi gli uomini che rispettano le donne, se non far contenta una donna, cosa gli regalano? Il pigiama di flanella, il ferro da stiro, il grembiulino oppure un bel bracciale? Scegliete voi, questo è il sondaggio. Un'azienda danese che produce gioielli ha affisso nella metropolitana di Milano dei grandi cartelli per pubblicizzare una sua linea di prodotti. A proposito di regali natalizi da fare a una donna, lo slogan dice: un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale. Secondo te, cosa la farebbe felice? L'idea di associare la felicità di una donna a quella di un gioiello è apparso a molti come un cliché antico e anacronistico, incentrato sulla figura della donna frivola, sensibile solo ai beni effimeri e di lusso. Chiediamo ai nostri ascoltatori, donne e uomini, di rispondere con la massima sincerità alla nostra domanda, per capire se la campagna pubblicitaria coglie nel segno oppure no. Chiamate all'800 24 00 24 e diteci se siete per i regali pratici o estetici, scegliendo una di queste quattro categorie rappresentate da quattro diversi oggetti. 1. Il ferro da stiro. Siete per i regali pratico-funzionali. Il ferro da stiro è il simbolo della quotidianità e del lavoro domestico. Nessun piacere estetico, ma solo funzionalità. Non lo disdegnate affatto perché vi fa risparmiare soldi. È un regalo unisex, visto che ormai da anni anche gli uomini, volenti o nolenti, hanno imparato a stirare. 2. Il pigiama. È il tipico regalo umarellico. Non ha funzionalità né estetica, ma comunicativa. Si fa quando in una coppia sono ormai spariti i perizomi e ogni tensione erotica è defunta tra le lenzuola. Il pigiamone è il capo d'abbigliamento antisesso per antonomasia e regalarlo è un inequivocabile messaggio per dire che vi attizza di più il manichino dei grandi magazzini che il vostro partner. 3. Il grembiule. Regalo strategico. Il regalo, in questo caso, per voi serve solo a inchiodare il ricevente a una determinata attività indorando la pillola. In questo caso a rendere esteticamente più accettabile il lavoro di chi spignatta tutti i giorni ai fornelli e cucina per voi. È un regalo pratico e estetico con una buona dose di paraculaggine. 4. Il bracciale. Siete estetico-tradizionalisti. Nessuna funzionalità. Siete per i regali voluttuari e anche per il rispetto dei ruoli. Vi piace sedurre con il classico dei regali. Non vi state a spremere più di tanto le meningi per un regalo originale. Aprite il portafogli ed entrate in gioielleria, sperando che poi si apriranno altre porte. Ed eccoci quindi al nostro sondaggio. Avete sentito? Le categorie incriminate di regali che non vanno fatte alle donne sono tutte sottoscrivibili. Vi ripeto, le stesse categorie sono luoghi del pensiero che possono essere anche applicati agli uomini, naturalmente. Il corrispondente del ferro da stiro che un uomo regala a una donna è, non so, la cassetta degli attrezzi, se l'uomo fa il meccanico, è la pompa per gonfiare i pneumatici, se l'uomo fa il ciclista, che anche quello potrebbe essere un bel regalo, però l'uomo fa il ciclista, gli regala la pompa, dice, ma come tutto il giorno sto lì a gonfiare i pneumatici? Faccio degli esempi paradossali. Regalare la sega se l'uomo è un falegname, ma che regalo è? Diciamo, me la vado a comprare, regalami qualcosa che mi fa divertire. Il pigiama. Allora, il pigiama è un regalo squallido, ma anche le donne regalano pigiami agli uomini. Non c'è cosa più triste di vedersi regalato un pigiama. Il pigiama in sé è una sorta di anziano e vetusto vestimento per andare a dormire. Ma chi è che più si mette il pigiama per andare a dormire? Cioè, il pigiama striscia, se vedere, che ne so, Edoardo De Filippo nelle sue commedie, Totò e Peppino, con i pigiami a strisce. Che ne so, è una cosa bestiale, da carcerato, una sorta di prigionia a una sorta di reietto uso delle coltri soltanto per dormire e per scaricarsi le proprie aerofagie. Il grembiule, grembiule vuol dire vai in cucina, cucina, fa il tuo lavoro. Anche a un uomo può essere regalato il grembiule, sono quelli divertenti con la proboscide dell'elefantino davanti, cioè sono tanti, ma è triste, in cucina si mangia, non è un regalo. Il bracciale, il bracciale è la cosa voluttuaria, regalo, potete regalare anche a un uomo un bracciale da uomo, come, non lo so, qualcosa che costa, che richiede un impegno economico e quindi è un impegno in affetto verso una persona. Mica è un obbligato a regalare gioielli di grande valore, ma regalare qualcosa che non serve a niente, che però sia bello. Io sogno tanto l'umarelle di plastica da mettere accanto alla tastiera e ti guarda mentre lavori, che pare che incrementi l'attività produttiva del 10%. Ecco, regalo inutile, a che serve un umarelle di plastica? Però me lo regalassero ne sarei felice e non è un gioiello. 800240024. Vi sintetizzo allora le quattro categorie umane a cui corrisponderebbe il regalo di vostra preferenza. Partecipate al Melog sondaggio. In quale regalo vi identificate? Chiamate all'800240024 e scoprite a quale di queste categorie esistenziali appartenete. 1. Ferro da stiristi ergonomici. 2. Pigiamizzati rassegnati. 3. Grembiulomani strategici. 4. Braccialofili narcisisti. Mi sembra chiaro? 800240024, sta arrivando pronta la risposta del nostro pubblico, mentre i magnifici 15 sono già di là nella stanza dei rilevamenti con i loro strumenti perfezionati, ergonomici, elettronici, digitali, per saggiare, valutare, soppesare i risultati delle vostre opinioni. Luigi? Sì, buongiorno Nicoletti. Se le scelte sono quattro. Sono vincolato col bracciale, anche se non lo regalerei. È un braccialofilo narcisista. Poi quello sono problemi suoi, ma secondo lei è un regalo fra le categorie che hanno tanto scandalizzato? Il regalo che veramente apprezzerebbe una persona è un regalo di valore, superfluo, gratuito, bello, o no? Un regalo di valore superfluo sicuramente, bello sì, non so poi l'utilità. Io preferirei fare un regalo di magari un weekend anche in una spa dove si passa un momento piacevole insieme. È un ricordo che ma quello fa se stesso, scusa che paraculo, fa se stesso, cioè, ti porti in una spa, andiamo nel tunnel dell'amore con i vapori. È un inutile dilettevole, come si dice, il bracciale è utile ma è anche dilettevole. Ma lei deve pensare agli altri, deve essere altruista, lei è un bracciolofilo narcisista, però è autosoddisfacente, non va bene Massimo. Luigi, fuori categoria. Ah, Luigi ha parlato. Massimo, scusate, Massimo, vi ho invertito. Massimo. Sono qua, presente. No, io volevo regalare un bel ferro da stiro. E allora è un ergonomicista lei, ferro da stiro ergonomicista. E poi lo trovo anche un accessorio nell'immaginario parecchio erotico, perché comunque... No, scusa, no, fermola. No, erotico, cosa ci fa col ferro da stiro di erotico? No, erotico nell'immaginario. Sì, ma nell'immaginario, la cosa pensa ci si possa stirare con quel ferro che possa dar gusto? Nell'antica Grecia la stallina aveva un po' questa... Sì, ma non esisteva il ferro da stiro con la resistenza... a 220 watt con il termostato ma incorporato. Ma non nella funzionalità del movimento, dico io, no? Quello richiama un attimino. Ma quello allora prende qualsiasi cosa, può prendere anche una pialla da falegname, è la stessa cosa. Ma è una cosa del tutto personale, nel senso che comunque... questo è importante, no? Perché guardi, ha fatto rizzare le antenne subito ai nostri sondaggisti, che è una sottocategoria che non avevamo pensato. Lei è una sorta di parafilia legata al ferro da stiro. Esatto. Cioè lei sogna dei ferri da stiro enormi a vapore? Sì, ci sta del ferro da stiro. Ma a vaporella, col vapore oppure senza? No, di quelli proprio ergonomici, come dice lei, ipertecnologici. Ma quelli antichi da una volta di ferro battuto? No, quelli sono già un po' più complicati, perché comunque va alimentata con la carbonella, un disastro. Quello lì a carbonella. Si scende un po', come si dice, l'attenzione. No? Lei sogna adesso di essere in nudo e una le passa il ferro da stiro addosso? Esatto. No, non a me, alla camicia, la donna col ferro da stiro. Le piace vederla mentre stira la camicia? Fantastica. Ecco, allora è il set che l'attizza. La donna stiratrice e lei la coglie da dietro mentre è prona sulla sua camicia. Senza neanche cogliere, però l'immagine della donna che stira è terribilmente erotica, appunto. Dovrebbe chiedere alla stiratrice se le va di slogarsi le giunture per far contento lei. Ma non è la stessa cosa la donna col mattarello che stende la sfoglia, scusi per capire. Spaventa, perché comunque Mattarella ha questa simpatia un po' più è il movimento dell'andirivieni che lei esatto, provoca l'andirivieni, questa tranquillità. Vabbè, comunque lei è un regalo, lei è stirofilo ergonomico, però lo fa sempre pro domo suo. Abbiamo capito finora, due uomini hanno chiamato, due uomini fanno regali per il loro attizzamento, non per il piacere della donna. Edoardo. Ma Edoardo è per il bracciale sempre, certo. Non c'è discorso, io amo le donne, se le vuoi conquistare è un discriminatorio. Questa volta questo è maschilismo. Questo è veramente discriminatorio. È sessista. Ecco, le conquista, le compra col bracciale. Mucca che gli mette l'anello addosso. Non è vero, però io ho trovato sempre signore, ragazze, giovani, vecchie e meno giovani che amano sempre ricevere un bracciale, un gioiello, comunque un disco. E credo che anche la più impenitente delle femministe si possa sciogliere di fronte. Però vede che c'è una, adesso io, a me non importa nulla, che ho la freddezza algida del sondaggista in questo momento, però vede che un sostrato discriminatorio e in qualche maniera antifemminista c'è, perché dice, vede, le donne gli fai il regalo, sono contente. Certo, è sessista questa cosa, però sessista. Sono contento di essere. Vabbè, se si sta bene, comunque regala a mia moglie dopo 40 anni di matrimonio, se gli regala un gioietto, lei le fa piacere. Poi magari non lo indossa, ma le fa piacere. Più del ferro da stiro, il pigiama e il grembiule. Ma non ne parliamo neanche. Sono d'accordo con lei. Giovanna. Ciao. Finalmente chiama una donna, vogliamo sapere anche il parere delle donne, sono veramente una trasmissione sessista. Allora lei, grembiule, ferro da stiro, pigiama e bracciale, cosa sceglie? Bracciale, sicuramente. Ma no, perché tutte si sono scandalizzate, hanno scritto in internet, sessismo, dateci la dignità, dateci il rispetto. Mi spiega dov'è il punto? E le chiami i regali. Le regalo un ferro da stiro, cosa mi dice? Ma io gli ho avuti il regalo, capito? Per questo sono stufa. Ma perché? Gli uomini gli regalano perché vogliono che li stira le camicie, i pedalini, i pantaloni, queste cose. No, è perché per economia, allora, visto che lo devo comprare per risparmiare, allora si fa questo tipo di regalo utile. Vabbè, ma è tristissimo, questo si chiama un contributo familiare, è un contributo familiare, ti aiuta con tanto le camicie poiché stiri sono le mie, ti do i soldi per comprare il ferro, ma non te lo porto infiocchettato come se fosse una bella cosa. Cioè, legata al ferro c'è un'attività noiosa, fastidiosa, reiterata, monotona, stressante, non è che è bello il ferro. È vero, però

il fatto di stirare fosse una cosa completamente desueta ormai, invece vedo che ancora c'è gente che stira, quindi... Cara mia, le nostre belle camicie che vede con questi collettini tutti azzimati, qualcuno le stira, qualcuno le porta in tintoria, ma qualcun altro ha una mamma, una nonna, una moglie, una zia, una schiava, un oggetto di piacere, sì, qualcuno che gliele pulisce, comunque gliele stira purtroppo, non vengono da sole così. Solo le camicie posso capire, è il resto dell'abbigliamento che non credevo che si stirasse ancora. Comunque, tipo, vabbè. Faccio un esempio, quale accessorio pensavo che non si stirasse? Ad esempio, i pedalini, i calzini? Ma tutto il resto, insomma, le cose si stirano. I pantaloni, cioè, senza piega. Niente di quello che mi metto è... Ma lei va in giro stazzonata, mi scusi signore. Ma no, ma sono ormai ci sono dei tessuti che si stirano addosso comunque. Ma quello è puro sintetico. No, però invece bisognerebbe secondo me fare un sondaggio per capire quante persone al giorno d'oggi stirano e magari anche chiedere l'età delle persone che stirano e quelle no, perché... Guardi, nel mondo qualcuno stira, perché no saremmo tutti in giro con i vestiti scomposti, con le pieghe. Qualcuno c'è, certo, capire il campione umano che ancora stira sarà oggetto di un prossimo sondaggio. Vedo tutti i 15 sondaggisti felici, non gli sembra vero. Stabiliremo un sondaggio chi nel mondo ancora stira. Siccome la gente va in giro stirata, qualcuno stira. Chi è stiratore o stiratrice che ancora fanno questa umile funzione che, secondo Elettra, non è più necessaria, visto che sono dei perfetti abiti. Ma anche negli anni 70 andavano quei tessuti sintetici, che hanno delle camicie che le lavavi, erano talmente plasticose che rimanevano rigide, ma facevano schifo, puzzavano. Una bella camicia di puro cotone o di seta, è chiaro che va stirata. Nino? Pronto? Sì, l'ascolto. Quarto gruppo, una sottosezione. Quale? Solo dettagli. Allora, gioiello, però siccome si offenderebbe perché... Braccialista, certo. Braccialista, gli direi, volevo comprarti un gioiello da tot euro, però sì. Siccome... Sono povero. Ti offendi, questi soldi, anziché per questo gioiello, li ho versati a tuo nome a un ente benefico. Sì, si prende un calcio sulle palle che ancora deve correre, ma sta scherzando, ma chi ne importa l'ente benefico? Assolutamente, perché sì, vabbè, una potrebbe donna che si lamenta perché gli viene degradato un gioiello, anziché un ferro da stiro, e si offenderebbe perché magari... Mi vuoi far stirare tutto e lo dice con è un'ironia. Certo, lei andrebbe col catalogo di Cartier, dice: guarda, questo volevo regalarti, l'avevo quasi comprato, ma tieni, ho pensato che una donna come te, vedi questi bambini africani poverini macilenti, ecco, oggi hai mandato a loro il sostentamento per 6 mesi, per un anno, per 10 anni. Mi ha capito perfettamente, vorrei vedere quante sarebbero poi contente effettivamente. Cioè, che poi, tutto sommato, avrebbe fatto una buona azione, non sarebbe niente di male. Sì, ma mi piglierei un calcio comunque. Il calcio sì, quello sì, però vale la pena, se uno fa il del bene. Il calcio morale me lo prenderei, pagherei comunque. No, farebbero la faccia tutta contrita, sì, davvero, bravo. Forse era meglio per le bambine che si sposano in gioventù. Preferivo, sai, così, qualcosa del genere. Avrebbero comunque obiettato. Sì. Vabbè, caro mio, benvenuto al mondo. Maria Assunta. Maria Assunta è morta. Nino. Nino ha parlato. Eva. Sì, ci sono. Eva, che cosa ama che le regalino e cosa le regala di queste categorie? Allora, la scelta era un po' scarsa. Scarsa. Un po' ovvia. Logicamente scelgo un gioiello. Mi sembra logico, sì. Sì, ti sembra logico, però c'è qualcosa che vorrei tanto di più. Cosa? Tanto, tanto, tanto, che è un trattore. Ah, un trattore? Un trattore. Il mio marito, 30 anni fa, quando ci siamo sposati, me l'ha promesso, eravamo un po' tirati. Sono 30 anni che le promette un trattore, non gliel'ha regalato. Fino adesso. Ma un trattore, mi scusi, no Eva, un trattore inteso in quanto mezzo cingolato o con ruote, diciamo... No, gommato. Gommato. Ma se no un gestore di trattoria, cosa non si è capito bene. No, un trattore preferibilmente rosso, marca Same, allora deve essere. Ecco, e preferibilmente con attaccato l'aratro, la trincia e la fresa. Le serve un aratro bivomere, lo vuole o semplice? Semplice, perché il trattore sarebbe un trattorino. Quindi lei dovrebbe lavorare un terreno per coltivarlo. Sì, ce l'ho i terreni e li lavoro, ma mi manca il trattore. E cosa fai? Lavora con la zappa e con il rastrello ancora? Per questo ci sono degli schiavi, costosissimi braccianti agricoli. Eh beh, certo, è costosissimo. No? L'alternativa è mettergli una catena al collo e fargli cantare le canzoni delle piantagioni di cotone. No, vanno pagati. Li pago bene e li rispetto. Sì, ma invece di pagare tanti braccianti con le zappe, non può affittare un trattorino, qualcuno che ha il trattore, li viene a arare, ranghinare, pulire, fare tutto? Questo potrei fare teoreticamente, ma... Vabbè, lei le piace vedere l'uomo con la zappa che... Sì, che vengono sui terreni per dire... Imperli. Gli ettari di erbe officinali non se ne fanno niente. Vabbè, ho capito, c'è un suo problema personale. Date un trattore a Eva, faremo un'altra sottoscrizione. Un trattore per Eva, un piccolo trattore, qualcuno ha un trattore usato, nel garage gli avanza un trattore... O faceva il trattorista, va in pensione, o magari un venditore di trattore, un modello vecchio che non va più di moda. Eva vorrebbe un trattore. Se qualcuno c'ha un trattore per Eva, faremo felici Eva. Eva avrà il suo trattore. Ci fermiamo un istante. Melog. Partecipate al Melog sondaggio. In quale regalo vi identificate? Chiamate all'800240024 e scoprite a quale di queste categorie esistenziali appartenete. 1. Ferro da stiristi ergonomici. 2. Pigiamizzati rassegnati. 3. Grembiulomani strategici. 4. Braccialofili narcisisti. Andiamo veloci, adesso abbiamo la porzione del nostro campione più interessante, l'abbiamo selezionata apposta, diciamo è la punta di diamante del nostro sondaggio. Rita. Ciao. Buongiorno. Complimenti per il programma. Perché rida? È una cosa seria, pensa? No, rido che... perché ho sentito il signore del ferro da stiro e mi sono scompisciata. Troppo simpatico. Lei dice quante occasioni ha perso nella vita che poteva trovarsi un fidanzato semplicemente stirando. Ma non c'è solo il ferro da stiro, c'è anche la lavatrice a questo punto. Vuol mettere l'aspirapolvere, scusi, l'aspirapolvere con i suoi accessori. Vuole mettere, ma certo, assolutamente, l'asse da lavandaia. E perché il girmigastronomo, il mini pimer, cioè... Quello è pericoloso. Vabbè, se no, chiama a rischio. Allora Rita, lei quale vorrebbe per regalo? Allora, io sono soprattutto per le cose pratiche, perché amo il bricolage, quindi ormai credo di avere il gettone di presenza alla Leroy Merlin, alla Brico. Quindi attrezzi da lavoro. Attrezzi. Quindi una bella sega confezionata con un fiocchetto la fa felice. Quando vedo un qualunque oggetto che serve per il bricolage, posso diventare pazza e un Natale mio marito... Allora diciamo un set di punte al vanadio per il Black & Decker la fa felice più che un braccio. Bravo, esatto, un bel svita a vita senza filo, queste cose qua impazzisco. Sono pochi soldi, anche una confezione chiavi a brugola non è male, diciamo. Guardi, tutto mi piace. Va bene, abbiamo capito, per conquistare Rita a questo punto, il gallo prezioso, uno va in gioielleria, dice mi confezioni una chiave da 18, diciamo, una 19, 17, 19, la facciamo però di platino e gliela regala e lei la fa felice. Margherita. Sì, pronto, buongiorno, sì. Nicoletti. No, mi viene da ridere sentendo queste donne che vogliono snaturare il loro essere donna. Perché la donna non può lavorare da falegname o da fare. No, non sto parlando della signora, sto parlando in generale. Cioè che dicono vogliamo rispetto, non vogliamo bracciale. Ecco, il fatto di volere un ferro da stiro piuttosto che un bracciale, o comunque sia se non porti il bracciale che sia una borsa, che sia una... Anche un anello. Questa cosa mi fa un po' storcere il naso da donna. Anche perché io capisco se non c'è le possibilità, però non si deve fare come la volpe con l'uva della serie, non me lo regalano, quindi preferisco il ferro da stiro. Siamo donne, non siamo come gli uomini, abbiamo gusti, siamo civette, ci garbano le cose estetiche. per cui... Ma anche cioè, non ci garbano, perché mica a un uomo non gli piace. Sì, però nella donna è un pochino più accentuato, via. E, insomma, l'essere femminile è così, la natura della donna è un pochino si vede. Se mi regalano una cover da cellulare Tempestate Diamanti, sono contento, mica dico che schifo. Ma quella anch'io, però deve essere una cosa per te. Se poi non ti garba il bracciale, ti garba un soframmobile prezioso, va bene, però sminuire la cosa. Come se a me mi regalano un microfono d'argento, dico sì, bello, ma ce l'ho davanti tutti i giorni, ci lavoro tutti i giorni, regalatemi qualcos'altro, che ci faccio. Ecco, unire l'utile al dilettevole va bene, però non nascondersi dietro al fatto. Benissimo, abbiamo sconfessato, diciamo, questa sorta di abominio eccessivo di politicamente corretto che hanno detto è sessista dire questa cosa. Invece non è sessista, le donne sono tutte contente. Poi chiaro che dovete rispettarle, se una donna la prendete a calcio e poi portate il braccialetto è uno schifo, siete degli schifosi. Se una donna la trattate bene e regalate anche il braccialetto invece che il pigiama, forse la fate più contenta. Anna, buongiorno. Mi fa piacere la telefonata di prima, perché così rispondo direttamente anche a Margherita, se non erro, sì, questo era il suo nome. Sì, questo è interessante. Allora, io sono una di quelle che sono passate dalla categoria 4 dei regali estetici alla categoria 1, dopo una vita in cui non ho mai ricevuto il regalo azzeccato, diciamo. Mi sono sempre aspettata magari anche un maglioncino carino, la maglietta. Invece? Ho ricevuto sempre le cose che non erano il mio genere, probabilmente la persona con cui stavo, nessuno era riuscita a capire i miei gusti, oppure... Ma lei poteva semplicemente esprimerli, dice, andava lì con un catalogo, una lista, mi piace questo, con la croce. Però così viene a mancare la sorpresa. Vabbè, uno dice nel momento di rapimento, caro, in questo momento il tuo abbraccio assomiglia all'abbraccio di un bracciale tempestato di diamanti, che sarebbe il mio sogno. Diciamo che ho imparato a farmi quel tipo di regalo da sola, e così... Ma dai, che tristezza, gli autoregali sono tristi, non è un autoregalo, è tristissimo. È vero, però anche ricevere una cosa che magari era più adatta per la fidanzata precedente... Però è vero, guardi, anche a me mi hanno quasi sempre regalato cose che non mi piacevano, non so perché, raramente. È vero, e allora a quel punto... Dalla fine lei che vuole, faccia capire, alla fine che vuole, Anna, qual è il suo regalo? Io il mio regalo preferito sarebbe quello che uno dimostra di conoscermi abbastanza da regalarmi. Eh sì, una vita, adesso uno sarebbe frequentare una vita, fidanzarsi, sposarsi, frequentarla, vivere morsoro e poi le fa il regalo, troppa fatica, subito deve dirlo, un regalo. Un regalo, una bella macchina fotografica. Una macchina fotografica, fine, questo è un bel regalo. Fatti bello, una macchinetta digitale, ci sono di vari prezzi, è un bel regalo anche per una donna, la fai felice, gli piace. Esatto, qualcosa che sia uguale alle mie passioni, magari una persona che... ti conosce, le sa. Invece farsi selfie col telefonino che vengono tutti schiacciati, una bella macchinetta fotografica, se fa foto un po' meglio, smette anche allo specchio, è un po'... Esattamente. Meglio. Brava Anna. Carlo. Grazie. Carlo. Ciao, buongiorno. Lei per quale regalo è? Quale categoria appartiene? Io per i regali utili. Ma regalo utile in sé, lo sai che è una contraddizione, se è utile non è un regalo. No. E si chiama sovvenzione. Avere il piacere di utilizzare una cosa tutti i giorni, bella, di avere il piacere di cucinare. A me piace cucinare, mi regalo un bel grembiule e sono felice. E uno dice, a me piace infilarmi i bracciali la mattina, il mio divertimento, se me lo regali sono contenta. Ma il regalo deve rispettare chi lo dà, se no gli regali i soldi e almeno uno... Se uno vuol mettere le cose, fanno più soddisfazione nella vita, uno dovrebbe regalare carta igienica, mi scusi, non è così che funziona, non funziona così. Uno regala una cosa che deve essere futile, una follia, una cosa che non serve a niente, uno scaccolatore in platino, cose inutili ma belle, ecco. Ma deve rispettare chi lo fa. Vabbè, lei le piace cucinare, benissimo, una bella pignatta, anche le belle spugnette, quelle metalliche per pulire e togliere la sugna, mucchi di cipolle, patate per pelarle. C'è gente che si diverte a farsi dare calci sulle palle, figuriamoci se non si diverte a cucinare. Va bene, Carlo, contento. Il godere dei piaceri quotidiani. Certo, è chiaro. Il godere dei piaceri quotidiani invece di vederli come una sofferenza. Perfetto, Carlo, il mondo è bello perché è vario. Filippo. Buongiorno. Sì. Ecco, io volevo sfatare un attimo il discorso sul regalo utile, meno utile. Il regalo deve essere gradito. Dico questo perché, tornando all'ascoltatrice di prima, io il trattore l'ho regalato. L'ho regalato l'anno scorso e quest'anno invece ho regalato un gioiello. A chi l'ha regalato il trattore? A mio compagno. campagna. A me, guardi, io non sapevo, guardi, che esiste una fetta rappresentativa di genere femminile che vuole un trattore come regalo. Questa è la scoperta. Perché no? Ma cosa ci fanno poi le donne col trattore? Cosa ci fa la sua compagna? Ah, per... ci va anche su come me. Ah, gli piace strattorare. Guardi, io vengo dalla campagna, io ho visto i miei familiari e le persone lavorano con loro per anni andare col trattore avanti e indietro per i campi. Non era proprio un lavoro divertente, quindi poi ci si diverte a farlo. Faticoso, una girare, tornare indietro, infilare l'arato, intanto fermarsi, pulire. Comunque va bene, le donne amano anche guidare il trattore, quindi pensateci, a Natale un bel trattore sotto l'albero farà felice la vostra compagna.